Sogni senza voli. Pim camminava nel bosco. Aveva la sensazione di conoscere quella parte della foresta molto bene. Sentiva che gli era amica. La luce del sole riusciva appena a filtrare attraverso i rami fitti che dondolavano cullati dal vento. Un viottolo stretto si apriva tra le sequoie. Era appena rischiarato da grandi candele sistemate all'interno di campane di vetro collocate a destra e a sinistra del terreno, coperto da foglie rosse e piccoli rami. Affascinato da tanta bellezza, si infilò nel sentiero. C'era un senso di pace nell'aria. Alla fine del viottolo, su un prato illuminato dal sole, vide una yurta cilindrica dal soffitto a cono. La porta era aperta. Salì 3 gradini di legno ed entrò. Ximenes e Grisenda erano seduti su 2 poltrone sistemate vicine. Erano vestiti tutti e 2 con tuniche blu trapuntate di stelle e lo accolsero con sguardi sorridenti, senza parole. Di fronte a loro un'altra poltrona era pronta per lui. Pim si guardò intorno e vide sulle pareti grandi fogli con disegni a colori di orsi, di cervi, di lupi, di cielo, di oceano e di foresta. Dalle finestre filtravano le figure maestose di alberi secolari. Accanto alla sua poltrona c'era un tavolinetto rotondo con sopra una tazza di tè. Si sedette e sorseggiò quella bevanda deliziosa. Calda al punto giusto. Menta e limone. È molto buona, grazie. È davvero bello qui. Ho la sensazione di esserci già stato, ma non ricordo quando. Un altro sorso di tè e poi, facendosi coraggio, avevo tanta voglia di rivedervi. Qualcosa è cambiato in me. Ho sempre un gran desiderio di volare per incontrare Alia, Kim e la casa, ma non ci riesco. Mi potete aiutare? La risposta gli arrivò in un canto a 2 voci. Aiutare, sì, possiamo. Ma osserviamo, e decidiamo. Se aiutiamo troppo presto, il successo è ben modesto. Molto meglio dare tempo, alla vita nel frattempo. Ma è proprio quello che la vita mi presenta che non mi fa volare. Un mondo pieno di dolore e di rabbia. Oltre alle pene del mondo, ci sono poi anche quelle della mia vecchiaia, che mi fanno sentire stanco e triste. È proprio per questo che ho bisogno del vostro aiuto. Ancora Ximenes e Grisenda, in duetto. Se tu chiedi noi veniamo, se domandi, conversiamo. Se sei pronto a domandare, noi siamo pronti a chiacchierare. Molto bene, cominciamo allora. Mi dispiace dirlo, ma il mondo che vedo non mi piace e mi fa star male. Ingiustizie, guerre, fame, carestie. Malattie che portano dolore e morte. Tanti innocenti che soffrono. La disonestà di chi semina menzogne e manipola con il solo scopo di aumentare il potere. Perché? Che senso ha tutto questo? È una domanda che non ci sorprende, gli rispose Grisenda, perché ce la siamo fatta tante volte anche noi durante le nostre vite su Gaia. Prova a pensare che per espandersi e crescere l'universo ha creato, all'interno di se stesso, il perfetto equilibrio tra bene e male. Pim non riusciva proprio a capire, e chiese, ma perché creare il male? Bene e male sono un'illusione, gli rispose Ximenes, perché tutto è parte dell'uno. Quando siamo su Gaia, a seconda della nostra percezione, viviamo in paura o in pace. Per favore, disse Pim, ho bisogno di parole più semplici. 5 sensi, occhi umani? Senza pace tu rimani. A parlare, anzi a cantare, era stata una grossa bolla di sapone comparsa improvvisamente nell'aria. Volteggiava ed esplodeva, ma immediatamente si ricreava cambiando colore. Ximenes e Grisenda scoppiarono a ridere. Pim divertito chiese, ma che succede? È la casa, che è venuta a trovarci, esclamò Grisenda. La casa la conosco bene ormai, disse Pim. La casa è in cielo. Questa non è la casa, ma una bolla di sapone dai colori divertenti, che scoppia, rinasce e chiacchiera. Per favore, cerca di usare l'intuizione e il ricordo che è già in te, disse Ximenes, perché in questa chiacchierata la logica non ti può aiutare. Pim aveva una gran voglia di dire che senza la logica non si capisce proprio niente, ma decise, almeno per il momento, di tacere. Va bene. Ci provo. Bravo, continua ad ascoltarci, mormorò Grisenda. La bolla di sapone è la forma che la casa ha scelto per venirci a trovare. Tu sei abituato a vedere gli uomini con un corpo fisico, ma chi non vive sulla Terra non ha certamente un corpo che può essere paragonato a quelli umani. I nostri sono corpi di luce che possiamo trasformare a nostro piacimento, proseguì Ximenes. Questo è vero per noi guide, e lo hai visto anche tu. Ora siamo qui con te in questo sogno con un corpo simile al tuo, ma possiamo trasformarci in un corvo nero e in un falco, e in molto più. Pim decise di mettercela tutta per provare a capire e continuò ad ascoltare in silenzio. Naturalmente anche la casa può scegliere il corpo di luce che preferisce, continuò Grisenda. Oggi ha deciso di stare con noi con la forma di una bolla di sapone, ed è molto benvenuta. Probabilmente ha intuito il nostro desiderio di compagnia nella chiacchierata che stiamo facendo con te. Immagino che voglia dirci qualcosa. Ascoltiamola. Bolla o casa, sono io. Esci fuori dall'oblio. Ora che tu sai chi sono, apri il cuore a ciò che dono. Non ti piace ciò che vedi, ti regalo due rimedi. Fai attenzione, ecco il primo, proprio ora te lo esprimo. Cinque sensi, occhi umani? Senza pace tu rimani. Il secondo vuoi sapere? Te lo dico, con piacere. Usa i sensi celesti, e vedrai ciò che vorresti. Il canto della casa arrivava direttamente nella mente insieme al suono di una chitarra gitana. I versi della canzone apparivano scritti nell'aria, composti da piccole bollicine colorate che si formavano e scoppiavano per far posto al verso che seguiva. Fu Grisenda a rompere il silenzio. Direi che il desiderio che guida la casa è di invitarti a osservare quello che vedi non solo con i cinque sensi, ma anche con i sensi celesti, l'intuizione e il cuore. Dopo di lei intervenne Ximenes. Avrai notato che il suo canto e la chitarra che l'accompagna hanno una vibrazione veloce e leggera, piena di energia e gioia, molto diversa da quella della paura che provi quando vedi ciò che non ti piace. Se usi l'intuizione e il cuore, tutto si alleggerisce e ti avvicini alla vera realtà. Tutto è male, è un'illusione. Ma su Gaia è la lezione, che ti insegnano e ci credi, e tu solo quello vedi. Prova a usare l'intuizione, metti al lavoro il cuore. E vedrai ciò che ti piace, ciò che dona gioia e pace. Il canto della casa entrò nella mente di Pim. E di nuovo piccole bolle di sapone apparvero spumeggianti nell'aria formando i versi della canzone. Pim, che era tutto teso nel tentativo di capire, vide le bolle di sapone dirigersi veloci verso di lui ed esplodere davanti al suo naso. Lo spettacolo era così assurdo che non poté fare a meno di ridere e rilassarsi. E fu così che scoprì che intuizione, divertimento e senza sforzo camminavano mano nella mano. Forse qualcosa comincio a capire. E certamente mi sto divertendo. Mi state dicendo che è sbagliato usare la logica e i cinque sensi? Assolutamente no, rispose Grisenda. E siamo molto felici per la tua domanda, perché ci consente di dire chiaramente che sia la logica che il corpo sono strumenti necessari in terra e meravigliosi. Il pensiero razionale è importante, aggiunse Ximenes. Ma l'idea che sei perché pensi è piuttosto limitata. Non sei solo pensieri. Sei sensazioni, sentimenti, emozioni, intuizioni, anima e spirito. Il tuo corpo meraviglioso ti offre in continuazione messaggi di grande valore, proseguì Grisenda. Ti parla. E quando ti dico che ti parla non esagero. Quindi no, non ti stiamo dicendo di non usare la logica e i cinque sensi, ma ti stiamo invitando, insieme alla casa, a usare anche i sensi spirituali. Specialmente l'intuizione e il cuore. Come avrete capito, disse Pim, il mio problema è la paura, che mi rende stanco, triste, pesante e mi impedisce di volare. Forse non devo usare i cinque sensi quando la paura mi assale? Le paure ci sono, disse Ximenes, e fanno parte della vita su Gaia, dove vedi cose terribili e cose bellissime. Sono le sue onde, fatte di alti e bassi. No, non ti stiamo invitando a non guardare quello che accade su Gaia, proseguì Grisenda. Come abbiamo già detto, i cinque sensi sono molto importanti e guardare con gli occhi terreni ti fa vedere ciò che c'è. Ma puoi usare anche i sensi celesti, che ti offrono la visione di ciò che ti piace e di quello che desideri cambiare. I sensi celesti ti offrono la visione del possibile che desideri. Quando, con i sensi celesti, vedi quello che ti piace, puoi muoverti nella direzione dei cambiamenti positivi. Bollicine di sapone dai mille colori comparvero di nuovo nell'aria e la casa riprese il suo canto. Se non vedi ciò che è male, non desideri cambiare. È celeste la visione, che il cambiare ti propone. La visione che ti piace, dona solo gioia e pace. Per cambiare poi ti serve, ogni senso e la tua mente. Grisenda e Ximenes annuirono. La manifestazione del desiderio su Gaia richiede la collaborazione tra cielo e terra, disse Grisenda. La tua parte celeste ti offre la visione di ciò che desideri, ti ricorda che sei creatore, e ti invita a eliminare il dubbio. La tua parte terrena mette in pratica, realizza la visione. E qui la ragione che tanto ti piace, i sensi terreni e la scienza, giocano un ruolo importantissimo, aggiunse Ximénez. Ma non dimenticare che molte scoperte della scienza avvengono attraverso l'intuizione, e spesso in sogno. Forse qualcosa comincio davvero a intuire. Immaginare ciò che desidero per cambiare quello che non va, disse Pim. Ma quello che proprio non mi piace è il malessere che mi assale. Perché? E che ci posso fare? Te lo dissi chiaramente, te lo canto nuovamente. Mozzarella o cioccolata? Minestrone o un'insalata? Colorato o sbiadito? Un po' sciapo o ben condito? Pim ascoltava con grande interesse. Te lo dico nuovamente, apri bene la tua mente. Tutto in terra è dualità, che vuol dire possibilità. Senza il due scelta non c'è, e la scelta tocca a te. Ximénez e Grisenda guardavano Pim sorridendo. E la casa continuò il suo canto. Solo tu scegliere puoi. Su decidi, cosa vuoi? Intervenne Grisenda. Hai detto che quello che proprio non ti piace è il malessere che ti assale, il tuo sentirti triste, stanco, pesante. E hai chiesto, perché? E che ci posso fare? Che ne pensi della risposta della casa? Penso che mi stia offrendo una via d'uscita, rispose Pim. Penso che mi stia invitando a muovermi, a fare qualcosa, a scegliere, a cambiare. Apprezzo molto l'invito, ma ho paura di sbagliare. Il commento della casa non tardò ad arrivare. Se tu scegli, puoi imparare. E se sbagli, puoi cambiare. Se non scegli e se non provi, resti fermo e non ti muovi. Tu sei qui per imparare, per giocare, e per volare. Tutto è a tua disposizione, per creare evoluzione. Questo è il senso della vita. E tu giochi la partita. Allora, vediamo se ho capito, disse Pim. Posso giocare a cambiare quello che non mi piace, e posso farlo scegliendo tra le infinite possibilità della dualità, per usare le parole della canzone della casa. È così? È proprio così, risposero in coro Ximénez e Grisenda. Ma è più facile dirlo che farlo, se non fai attenzione. Attenzione? Spiegatevi meglio. Per scegliere, proseguirono le guide, devi essere consapevole dei tuoi pensieri, delle tue emozioni, di ciò che succede dentro e fuori di te. Ma spesso, molto più spesso di quello che credi, non è così. Le tue reazioni possono essere guidate dalle abitudini invece che dall'attenzione. È come se alla guida della tua vita ci fosse il pilota automatico. Invece di essere consapevole di quello che fai, di come stai, di quello che ti circonda, e invece di essere tu a decidere cosa fare, agisci automaticamente, senza consapevolezza. Ed è per questo che la paura ti assale e ti resta addosso. Per scegliere, per cambiare, devi essere presente, attento. Essere attento e consapevole di quello che vivo. Davvero interessante, disse Pim. Ed essere io alla guida. L'idea mi piace. Giochiamo? La bolla di sapone scoppiò in una risata di approvazione e questa volta a rimanere a bocca aperta per la sorpresa furono Ximénez e Grisenda. Che vuoi dire? A che gioco vuoi giocare? Mi piacerebbe rivedere, insieme a voi e alla casa, quello che mi fa paura e mi rende triste e stanco. E mi piacerebbe scegliere pace e gioia invece di paura. Proviamo? Alla bolla di sapone l'idea piacque molto e decise di mettersi all'opera. Vibrò nell'aria e diventò molto grande. Immagini, suoni e colori si susseguirono veloci mischiandosi tra di loro. Poi rallentarono e si fermarono. Sulla sua superficie comparvero come in un film le visioni che appesantivano Pim. Per prima emerse la terra, che diventò una cosa sola con la bolla di sapone. Erano tormentate, sporche, e soffrivano. Incendi spaventosi bruciavano foreste millenarie. I ghiacciai si scioglievano. L'oceano sommergeva le coste. La furia delle acque provocava alluvioni, inondazioni e valanghe, distruggendo tutto quello che incontrava. Miliardi di locuste invadevano le campagne e divoravano i raccolti. Il riscaldamento globale stava distruggendo la terra. La scena cambiò e l'uomo apparve sulla superficie della bolla di sapone. Genti che si odiavano e lottavano tra di loro. Chi cercava di fuggire dalle guerre e dalla fame per trovare pace e speranza veniva respinto. Tanto rumore, continuo, assordante, che avvolgeva tutto e confondeva le menti. Grandi città, e povera gente senza casa che dormiva per strada. Sporcizia e fetore. Immagini di paura, manipolazione, ingiustizia, rassegnazione e disperazione si susseguivano vorticosamente sullo schermo. E infine fu il turno di Pim, che nella bolla vide se stesso. Le scene si mischiarono di nuovo rapidamente. I figli ormai grandi che lasciavano casa. E la casa non era più la stessa senza di loro. L'età che avanzava e lui che diventava vecchio. L'idea di essere inutile si infilava nella sua mente insieme a stanchezza e tristezza. La morte che bussava alla porta e lui che non voleva aprire. Le immagini sulla bolla di sapone rallentarono, i suoni si attutirono e tornò il silenzio. Ecco, chiese Pim, ditemi ora voi come posso scegliere gioia e pace dopo aver visto queste immagini? Fu la casa a rispondergli. L'attenzione devi usare, se la pace vuoi trovare. Più uso l'attenzione guardando tutto questo, ribatté Pim, più mi sento triste. L'attenzione che tu usi, hai i sensi mezzi chiusi. Usi solo i cinque sensi, vedi solo ciò che pensi. Prova a usare l'intuizione, metti a lavoro il cuore. Se la pace vuoi trovare, devi anche immaginare. Sogni belli vuoi sognare? Guarda meglio e vai a giocare. Pim accolse la canzone della casa col cuore aperto, e pensò che davvero gli sarebbe piaciuto riuscire a giocare, a usare l'immaginazione ed il cuore. E il potere dell'intenzione cambiò l'energia. La bolla di sapone vibrò di nuovo nell'aria, diventò molto grande e sulla sua superficie riapparvero i pensieri che avevano attraversato la mente di Pim. Questa volta però la visione era completamente diversa. Suoni e colori si alternavano in un movimento armonico che faceva bene al cuore. La terra riapparve sulla superficie della bolla, e diventò una cosa sola con la bolla di sapone. Erano azzurre, bellissime, e felici. Foreste millenarie accoglievano alberi appena nati, avvolti da gocce di nebbia che li proteggevano e nutrivano. Cielo, terra, legno, vento e acqua giocavano in un movimento meraviglioso di suoni e colori. La flora, la fauna e l'uomo erano una cosa sola con Gaia, e condividevano con lei pace, gioia e rinascita. Il cielo stellato era splendido. Il movimento di pianeti e comete creava una danza in cui tutto era uno, in cui ogni creatura celeste dava e riceveva energia creando il nuovo. L'immagine cambiò e l'uomo apparve sulla superficie della bolla di sapone. Genti che si guardavano negli occhi e scoprivano di essere fratelli. Chi cercava una vita nuova veniva accolto. I muri che dividevano crollavano e venivano sostituiti da ponti che univano. La speranza vibrava forte nel cuore dell'uomo e la pace avvolgeva la terra. E infine sulla superficie della bolla Pim vide se stesso. I figli erano ormai grandi, e felici. Anche Pim era felice e commosso. Aveva fatto, insieme a Cecilia, un gran bel lavoro. Vide che diventava vecchio. E più saggio, più in pace. C'era così tanto da offrire a chi aveva bisogno di aiuto. E gli fu chiaro che il dare e il ricevere condividevano la stessa energia della gioia. Poi vide che la morte bussava alla porta. E l'idea di lasciare la vita, Gaia e chiamava gli toccò forte il cuore. Le immagini sulla bolla di sapone rallentarono, i suoni si attutirono e tornò il silenzio. Dopo un lungo respiro, la casa riprese il suo canto. Come hai visto sai sognare, sogni belli da incantare. Ti è bastato immaginare, e col cuore puoi creare. Hai scoperto che c'è il male, e che lo puoi cambiare. Hai una parte da giocare, tocca a te, datti da fare. Mi piacerebbe, ma forse è un po' tardi per giocare e darmi da fare, pensò Pim. L'età che avanza è una realtà e diventare vecchio non aiuta. I suoi pensieri vibrarono nell'aria, raggiunsero la grande bolla di sapone, che esplose, si divise in mille bollicine colorate e iniziò a cantare. Solo tu scegliere puoi. Pensa bene, cosa vuoi? Ciò che pensi è ciò che crei. È importante che sia ok. Vecchio è uguale a triste e spento? O a saggio, allegro e con talento? Forza, gioia e realizzare? O lagnarsi e stare male? Direi che non ho alcun dubbio ormai. Ho capito che se osservo con attenzione la realtà così com'è mi viene voglia di immaginarla diversa e più bella e posso decidere di fare la mia parte per cambiarla. E questo mi fa sentire molto meglio, mi fa venire voglia di giocare, disse Pim. Ho una domanda però. Riguarda l'immagine della morte che bussava alla mia porta. Il mio cuore trema al pensiero di lasciare la vita, Gaia e chi amo. Possiamo parlarne? Certamente sì, rispose Ximenes, ma non ora. Farai una bella chiacchierata su questo argomento quando tornerai dai tuoi nipoti che verranno, che tra l'altro ti stanno aspettando. Scoprirai che loro sono molto preparati a risponderti. E sono sicura, aggiunse Grisenda, che ciò che sentirai ti piacerà. Pim esclamò felice, bene, allora andiamo a trovarli. Fu la bolla di sapone a rispondergli, come al solito cantando, questa volta con voce leggera, quasi sussurrata. Ora hai voglia di volare? Devi un poco pazientare. Dai nipoti arriverai, se un bel sogno sognerai. Questa volta senza noi, e sappiamo che tu puoi. I suoni si affievoliscono, le luci si attenuano e il sogno lentamente svanisce. Pim è sveglio, ma una parte della sua mente è ancora legata al sogno. Sa che per tornare dai nipoti che verranno deve prima sognare un bel sogno e poi volare. Da solo. Ce la farò? Si chiede. La risposta che gli arriva, dettata dal cuore, è, spero. L'intenzione ce l'ha, e anche la curiosità di rivedere Alia e Kim e di sentire cosa hanno da dirgli. Le guide e la casa gli hanno detto che loro sanno che può farcela, e questo gli dà speranza e coraggio. Ma ormai ha imparato che la risposta vera arriverà dalla vita, e che sta a lui e solo a lui giocare la partita, con attenzione e scegliendo tra le infinite possibilità che ogni giorno, e ogni notte, gli doneranno.